con Tania Boazzelli per Scatto Libero, Frammenti di Libertà, la mostra del laboratorio fotografico Scatto Libero, ideato e curato proprio da Tania. Tania, ben trovata. Ciao, bentrovati a tutti, ciao Onda Rossa, grazie di averci chiamato a nome di tutti. Allora, Carcere di Rebibbia, quindi Roma, 13 e 14 ottobre. Raccontaci un po'. Siamo arrivati finalmente alla mostra di questo laboratorio fotografico che è nato nel 2016. Ci sarà questa mostra al carcere di Rebibbia, alla terza casa circondariale. Questo laboratorio nasce nel 2016 per la voglia di portare il mezzo fotografico ai detenuti, coloro che generalmente non hanno un'opportunità, insomma, di utilizzare la macchinetta fotografica, e ci siamo presentati lì per dire a loro che avevamo voglia di farli esprimere attraverso macchinette e rullino, quindi un progetto fotografico in analogico. Ci siamo presentati, inizialmente loro molto diffidenti, giustamente. Ci siamo fatti conoscere, gli abbiamo detto quello che volevamo fare e a poco siamo entrati in confidenza. Niente, tramite un po' di teoria, non troppo pesante, ovviamente avendogli fatto conoscere qualche padre vero, insomma, della fotografia, abbiamo fatto vedere qualche scatto, dopodiché li abbiamo messi all'opera facendogli conoscere sia il mezzo proprio della macchinetta analogica, che non aveva, insomma, grandi pretese, ma una buona pellicola, e poi li abbiamo lasciati liberi di poter fotografare quello che loro volevano fotografare in un posto dove non c'era niente, non c'è niente e niente. Una volta che abbiamo suddiviso i scatti in 2 giornate, tra l'altro in una pioveva, invece in un'altra c'era un bel sole, hanno fatto quindi un rullino a testa per quindi 36 pose. Poi abbiamo sviluppato le pellicole e poi io ho curato tutte le stampe che poi vedrete alla mostra del 13 e 14 ottobre sul muro del carcere di Rebibbia, però presso la terza casa circondariale. Il laboratorio che frequenza ha avuto? Allora, il laboratorio ha avuto la frequenza di una volta al mese. Noi avevamo a disposizione un sabato del mese, ovviamente organizzato con l'educatrice che tra l'altro nomino, che è la dottoressa Albano. E praticamente andavamo tutti i mesi al carcere. Ovviamente c'è stato il periodo della fase di scatto in cui siamo andati sia un sabato che una domenica, e poi fino ad oggi praticamente, perché il laboratorio è andato avanti, cioè questo è il primo progetto, ma in realtà poi abbiamo iniziato anche un secondo progetto di cui non vi svelerò niente. Senti, questo per quanti mesi? E questo è durato circa 1 anno e 2 mesi, sì, Ok. 1 anno e 2 mesi, infatti il secondo poi, insomma, sono 8 mesi, insomma, che lo portiamo avanti, sì. Qu quante persone detenute ha coinvolto? Allora, in realtà noi non abbiamo dato una restrizione in questo senso, nel senso che loro potevano partecipare, però al nostro progetto vero e proprio hanno scattato in 15 persone. Quindi 15 ragazzi hanno avuto la macchinetta fotografica, hanno avuto un rullino e abbiamo sviluppato quindi 15 pellicole. Quante saranno le opere in mostra? Allora, le opere in mostra saranno 45 totali, perché sono 15 foto grandi e 2 piccole a testa, quindi moltiplicato per 15 per 3, insomma 45 opere esposte sul muro del carcere. E che impressione hai ricavato da questa esperienza? Ah, uno dei regali più belli della mia vita mi sono fatta in realtà, nel senso che questo per me ha voluto dire tanto, nel senso che mi sono messa anche in gioco perché inizialmente io non volevo stampare le foto, poi la mia insegnante mi ha detto: ma chi meglio di te le può stampare? Insomma, sai, io sono molto presa anche a livello emozionale da questa cosa e quindi ho un tesoro dentro di me, mi hanno regalato tanto, cioè io quelle foto le avrò dentro di me per sempre, praticamente, perché ho visto anche con quale trasporto loro, cioè, le hanno scattate, niente, si sono anche loro, insomma, hanno visto i loro scatti, si sono impressionati proprio per usare un termine fotografico. Senti, ci lasci dei riferimenti internet per maggiori informazioni? Certo. assolutamente sì. Allora, il sito è www.scattolibero.org. Invece, per quanto riguarda la pagina Facebook, è Scatto Libero. E invece, per quanto riguarda la pagina Instagram, che è molto seguita, e di questo siamo anche noi tanto contenti, è official_ig_scattolibero. Perfetto. Quindi, da quanto dicevi, è comunque un'esperienza che avrà un seguito. È un'esperienza che ha avuto un seguito, perché noi abbiamo lavorato, già da 8 mesi che stiamo lavorando al secondo progetto, per il quale sono stati coinvolti anche un membro, c'è un membro in più, insomma, è Scatto Libero, è una fotografa che viene da Firenze, e quindi abbiamo portato un secondo progetto, ovviamente con l'autorizzazione da parte del carcere di Re Bibbia, la terza casa, che ringrazio, la direttrice Annunziata Passannante, e praticamente abbiamo portato questo secondo progetto, che però in questo caso, proprio per abbreviare i tempi, visto che i tempi sono stati abbastanza lunghi per l'analogico, questa volta il secondo progetto sarà in digitale. Bene. Posso, se vuoi, rivelare solo il nome, ma niente più. Vuoi, come vuoi, come vuoi. Allora, va bene, sì, il secondo progetto si chiamerà Ritratto di Famiglia, e basta così. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Scatto Libero, Frammenti di Libertà, mostra del laboratorio fotografico Scatto Libero, curato da Tania Boazzelli, a Roma, carcere di Re Bibbia, 13 e 14 ottobre. I riferimenti ce li hai dati. Tania, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie a voi, vi aspetto tutti. Ci vediamo sabato prossimo e domenica prossima al carcere, sul muro della terza casa. A presto.